1, 2, 3, prova. Hola, 1, hola, 1, 2, 3, prova. Claudio, ci sei? Attento, Claudio Pirivella, ci sei? Il Claudio forse non è acceso ancora. Poi in giro. Aspetta un attimo, già che c'ho la stufa che ha problemi, no? Accende la candela, quella che fa accendere il pellet, no? E lo devo accendere con la diavolina. Allora, accendo con la diavolina, quello che poi mi ha suonato, vorrei vado a controllarla. Se c'era la fiamma bassa, perché se la fiamma è bassa gli butto la troppettino di diavolina dentro, capito? Già non è gustissimo di più. Troia, queste stufe a pellet sono un travaglio, pulire ogni giorno, portare il pellet, ui. Lo so, aspetta un attimo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola sarda che chiama. CQ canale 10. Era così, questa notte non è stata mai, è triste sì, perché te ne vai, non dormirò questa notte abbracciato con lei. Tanto sarà questo disco che ti legherà, proprio a te e meno a me. Antonio, ci sei, cambio. Cambia letto. Antoine Chose, la storia di Antonio. No, sono riuscito a farla partire, ma non va. Guantanamera. Cosa già? Non l'hai sentita. Ehi. Ho voglia di... in quanto assassino. Qua non ti mettono questi giorni già, impegnato lì. C'è la mia compagna a casa. Ah, è ripartita? L'ho accompagnata ieri. No, ma anche io. Vabbè. Ieri c'avevo ospiti, due amici a casa. Qua la Marina. Ha pagato. Vabbè. Noi stavamo cantando questo periodo, cazzo, stavo divertendo un bel. E anche noi ieri, io un po' meno, ma loro sì. aspetta un attimo, due secondi. Ho visto che te comprati il microfono luminoso. Cazzo, tu ce l'hai quello dei cinesi? No, io c'ho... Vabbè, ne ho due. Un impianto che è fatto da me col computer, le casse del computer e il karaoke, quello cantato, te lo ricordi? Ho fatto l'impianto, canto, la canta tu e leggo dal computer. E praticamente la musica me la manda dal computer sulle casse che sono ben buone, di quelle forti, quelle potenti. C'ha sub amplificata, eccetera. E l'altro invece vi ho comprato quella cassa che si illumina tutta, che puoi cantare senza filo, col microfono senza filo, che si illumina tutta quanta, c'ha 300 watt di potenza, ma chi sa, esce del pubo, si è messo a cantare Emanuela, io dico grazie, si sono fondamentati, rubati, ha fatto certi acuti allucinanti. Beh, aspetta un attimo. Attenzione canale 10, copiate Antonio Bombolo che fa chiamata K. Avanti Antonio. K, come senti col microfono a tavolo? Bene Antonio. Ok dai, questo è l'MB più 4. Già va bene, è chiara la radio, dai. Non è fortissima ma è chiara. Lo so, lo so. K. 1, 2, 3, prova. No, guardate un po' di più. 1, 2, 3, prova radio, sì. Ok. Anto, ma poco fa perché stavo facendo tutta fischia? Perché stavo commettendo le connessioni al microfono. Ah, ma ieri ti ho sentito lo stesso che stavi uscendo con questa alternata. Cosa è successo? Abbiamo risolto, dai. Alternata, ce ne senti adesso? No, un alimentatore. Ma cosa alimentatore? Il suo microfono era. Ah, e che cos'era? L'MB4, sempre quello lì? No, non c'entra nulla, no, non c'entra niente. Era una sciagogia, era. Adesso, dopo lo provo a casa, come arrivo, provo a casa e vediamo un po' se pompa, cappa. Eia, già va bene, dai, l'altro pompa di più, Dove sei? Da Luca Fippo? No, da Pomponio. Ciao Pomponio. Ciao Caduccio. Ai, che bello, cazzo. Ah, si sente? La grande modulazione di Antonio, cambio. Ehi, adesso chiudiamo tutto e via. Aspetta che lascio qua. Ehi, Pomponio, il controllo di Santiago di Radio, per favore. Moletta. Ora, 1, 2, 3. Sei a posto? Ah, hai tenuto un'alternata? Oh, ma che cosa, i nocchi? Non avete parlato contro la radio Santiago, grazie. Ehi, avanti! Ma si sente l'alternata qua? Ah, vai al microfono senza parlare, solo il microfono. Sì, si sente. Il microfono era, abbiamo già scoperto cosa era. Si sente anche adesso, non leggera ma si sente. Gappa, gappa. Adesso aumenta. Oh, c'è qualcosa sul microfono. Adesso quello là è a posto, questo qua c'ha problemi. Adesso lo controlliamo e vediamo cosa c'è. Gappa, andave. Comunque quasi a fondo scala, sì. Ma abba, ma razzurci, gatto. Radio chiara, Sì, no, già va bene la radio, già. Dalle alture stiamo modulando. Che io ho capito cosa era. Era alimentatore sporco. L'ho pulito con la spray per prima con l'aria e poi con lo spray per contatti. Avanti che la bomba. Gappa, può capitare. A niente di così strano. Lo riproviamo l'altro. Torino. Ora mi sta cucina. Questo è perfetto, il mio come si sente? Bene, bene, si sente, una bomba. Cava, cava. Andava bene, adesso ho staccato tutto. Così sono gli sci... Kappa. Cazzo, una bomba questo MP4, Mi sto sentendo in cuffia, cazzo, una gannonata. Guardate come se fossi in verticale, limpida, recuaro. Se poi devo fare qualche modifica, però già lo sa, riuscire più forte. Kappa, dai, no, già. No, sono contento, ti dico la verità, mi sto ascoltando e sono una cannonata. Quello là fa un bel casino, fazia. Atto, ho visto la modifica del 550, che tempo che ci fossi con la modifica. Ha aumentato watt e cose, la radio. Poi già è forte così, siete come 10 con la modifica. Gli ha messo l'eco colpo, una bomba. Già lo so, già l'avevo visto un po' di tempo fa. L'avevo visto, era una cannonata. Sicuramente nell'87 deve abbassare perché quasi, cazzo, cos'è che pompa parecchio? Minchiacca. Cazzo, lo sto provando, e io mi voto a casa in occhi, cazzo. Bello, cazzo. Cosa stai provando? Sto provando il mio microfono su questo apparecchio. È una cannonata, Che apparecchio lo stai usando? Il tornado, Mia, roba di che l'ha staccato il filo, la mazza che ne è varia. Staccato? C'era un filo staccato, c'era, oh. Oh, va. Hola. Suga. E ti voglio arrivare a fare inventatore, tutto gatto, un buon microfono. No, ma già lo sapevo io. Aspetta che sto passando a quello là, lo stiamo saldando. E si sente la tornata, sì. Adesso ho aumentato il boss, l'ho messo a 13,8 e va meglio. Aspetta un attimo, prova a attaccare il filo e faccio la commutazione a questo microfono. Antone, ma la sirena non l'ha mai trovata, quella è la polizia, come bip, a te che ti piacciono i bip così. C'è una sirena della polizia, un po' bellina. Sì. Che sciuga. Già me la compro. Che sciuga il suo mio. Un attimo, devo capire da dove viene fuori. Ehi, peggio che mai. Hai visto dove era la fermata? Aspetta un attimo, stacco faccio la commutazione nuova. Gianni! Oh, Nara! Vabbè, sta andata a me. Questo è come la fare che c'è su il Galaxy. Il G gemello. Eccolo che l'ho comprato. C'è parecchio da messo a parte, capito? Adesso ho sfruttato un po' di roba, si sono demolendo un po' di roba e l'ho messo in facciata. Questo qui è un apparecchio come si deve, che esce un bel bello. Io lo sto facendo lo stesso col garage adesso. Guarda la mano il segnale a vedere come ti sta arrivando. Il segnale è buono, so che c'ho un effetto questo, sono io. C'ho il segnale, questo è un po' tirchio, capito? Un po' tirchio. E con l'altro, vabbè, ogni apparecchio già lo sai che cambia, con questo ti do una misura e con l'altro un'altra misura. Proprio con questo ti do un salto di 8 e mezza, 9 diciamo. Invece con l'altro sei 9,15. E mi sa che sia un po' tirchio, secondo me. Guarda adesso come sta arrivando, si è arrivati anche di Santiago, 1, 2, 3, pronta. E adesso se come 10, se la radio è forte, eh. Chiara, chiara, ma è chiara la radio? Diciamo bene, già si capisce, guarda, qua c'è la caffettiera, il caffè è fatto, sì. Ehi, è un po' di caffè. Andare, andare, va benissimo. Io qua sono regolato, io ho fatto l'occhio, ho fatto, quasi ce l'ho a fare qualche regolazione, ma non mi ricordo più, guarda, mi sto ricoglionendo, casa, poi della collina d'acqua mi sto ricoglionendo. C'ho una pompa attaccata, stamattina ho svuotato nuovamente la fossa sedica che sta entrando l'acqua. Con la segamina c'è quattro pompe attaccate, io abito a Marchetto, diciamo, là, a Ottava. È una risaria, tu ci devi lavorare e vedi i fiumi a destra e a sinistra. Campagna non ne vedi più. Pompe di acqua. Ombre, proprio guarda, no? Io non ho capito, tutta l'acqua dalle campagne là sopra, la scuola sono in pianura, tutta a me sta arrivando, a me, tutti quelli a fianco, là, ai confinanti sta arrivando. Spero che calmi, che sei pure un po' a Venezia quest'acqua, tutto qua sta arrivando invece. E allora ti innaffia le piante. Se stanno galleggiando le piante già, stanno galleggiando. Si prende che ci ha riusciti troppo stutti a stare fatti. Contro la natura l'uomo non si può mettere. La natura ha una forza che è indiscutibile, è proprio la forza che ha. Si sta ribellando, non c'è nulla da fare, no, si sta ribellando. Tutto il casino l'abbiamo fatto adesso, tutto contro di noi, non c'è niente da fare. Si può salire e scendere, via, un casino. Un casino, mia figlia si è staccato l'umidificatore che anche lei in casa, oggi è un casino lo stesso. Sta pulito ieri e oggi peggio di prima. E tu la mattina apre tutto, attacca tutto, niente da là. L'umidità è riprende dappertutto. Va bene, c'è un po' poc'anzi, è sparito. Stavano facendo i collegamenti. E io ieri mi sono pulito tutta la veranda perché come la lasci chiusa si stava formando tutta la muffa attorno. Ho preso sì che ho la pancata, la marecchina e così l'ho fatto unito come c'era prima. Perché non mi piaceva, tutto nero si stava facendo. Ma guarda, tanto fai luce, non è la stessa cosa. C'è troppa umidità in giro, non è vano. C'è troppa umidità. Oh, è un casotto. È un casotto, beh, adesso è cominciato a gira, se è mezzogiorno accendere il fuoco e c'ho questi animali che stanno camminando e mi dovete dal fuoco. Oh, che animali c'ha? Ho le gambe che cioè, stanno camminando, adesso è dal fuoco le metto. Che affare, io gli ho fatto digestione a Natale a Capodanno, massa, ma le gambe, lui, gambe, in forcetta, nero, non li voglio più vedere. Oggi mi sono fatto quelle costine di... le ho messe a cucinare a metà, adesso a mezzogiorno e mezzo le rimetto e le faccio finire di cucinare, poi le costine di maiale, il gesso poco vuole. Se lo so, poi abbiamo un po' di capocollo lo stesso, ma adesso vediamo, va. Adesso vediamo, lo so che in realtà si fa, vabbè, qui io qua noi siamo abituati, non ci Natale, se lo mangiare il pesce, meglio carne, meglio carne, ma adesso basta. Siamo questa cassetta, l'abbiamo aperta, adesso mi è già pronta. Iniziamo, c'è il fuoco, c'è molto lento, ciccia. E poi la dieta, poi iniziamo la dieta, va. Sì, sempre così si dice, da lunedì comincia la dieta e non cominci mai. Ma stanno a dire mai il mese, ho già. Il mese non si dice mai. Ma anche io, guarda, stavo finendo tutta la roba che ci avevo da Natale, nel senso che affettati che mi sono ammazzati, peperoncini, piccoli rotondi, ripini contorno, tutte queste cose qua. Piano piano presto fieno, finito quello, boh, dieta ferre. Ascolta un attimo già, ma te veloci quali sono? Quelli che tu hai comprato in qualche supermercato oppure fatti in casa? No, sono fatti in casa. Maesco, i migliori, sono migliori, anche noi le facciamo. Abbiamo ricevuto il tonno, capperi, acciughe e qualche altra cosa che non mi ricordo. Ora lì ti so, guarda, io ti comando, molte volte conservo il sugo, l'olio del mare, molte volte quando faccio la pasta me la butto sopra, così le dà un sapore di proprio di peperone. E che non crepia. Sì. E tra l'altro quest'anno sono venuti anche meno piccanti delle altre volte erano più piccanti. Quest'anno ho preso quelli piccolini, quelli più piccoli, e sono meno piccanti. E lo so, e secondo come vanno raffiati, capito? E secondo come vanno raffiati anche, molte volte uno le cose le raffia di più, non riesco meno piccanti. E vabbè, già si mangia, diciamo che neanche il cane mangia, lì adesso, che tu ne lasci. No, a me già mi piacciono, ne mangio due o tre pezzi, perché di più no. Però mi piacciono quelli, mi piace il formaggio piccante, mi piace tutta la roba affumicata, tipo salmone, tutta la roba affumicata mi piace. La pancetta affumicata, queste cose qua, tutta la roba affumicata ci vado male. Buonanotte, e tu secondo me, so che ho bisogno molto approfittare, già. Ho bisogno molto approfittare, perché tutta la roba che stai dicendo, come per esempio il vino, la birra, questa qua, sono problemi, diciamo, apposta per tutta questa roba qua. Tu secondo me, io sono in corso, è in corso, diciamo, dalla piccante sono in corso. Però sto cercando di eliminare, non eliminare, immagina qualcosa in meno, perché sennò guai. Sono tantaglia, ma come già. Ma se no non è buona quella salsiccia, io ho comprato al centro carne, carta, buona che buona. Adesso la compro sempre lì. Bomba è buona, è affumicata, è stagionata al punto giusto, proprio buona veramente. E la salsiccia di oggi è presa giù ai punti da coso, da tesone. E prendiamo quella di coso, quella di becchita. Becchita proprio affumicata, proprio con la taglia è un gusto, tutto carne, non vedi neanche cosa di grasso. Proprio l'odore proprio del fumo senti, proprio con la vita. Ehi, a me mi piace molto così, tutto affumicata. E vabbè, con la questione di lui c'è gente proprio che la roba affumicata non la può vedere, a me mi piace un bel, mi piace anche la ricotta mustia. Buona resa, no, a me la roba affumicata mi piace parecchio, sia prosciutto sia... E perché c'è la pancetta peppata, non ti piace? Ma il colesterolo, lo so, ogni tanto lo sento, ogni tanto un amico faceva in casa, era un appartamentino che usavamo per fare il pranzista, c'era lo studio. Ha pigliato le pezze di carne, l'ha fatta in casa, ovvia, sul salento le tiravo quando portava a casa le pezze, poi ci abbiamo diviso, ha capito? Ogni giusta, ma quel cane mangiava, anche la mia voluta, figurati. E anche il prosciutto così ben fatto è buono, quello sardo, è molto buono, io lo compro al supermercato, quello sardo ben fatto, molto buono. Insomma, siamo in corso, non bisogna approfittare molto. Non bisogna approfittare molto. Già, ti lascio 2 minuti che accendo il fuoco, vai solo, pure. Ehi, ho capito. No, più sentito a Bacchiglio, tu più sentito là. A Bacchiglio vado spesso io, vado un giorno sì, un giorno no. Male, molto male. Molto male, oppure che non entra, non ce la fa entrare. C'ero, no, ieri no, ho chiamato la moglie, ma ieri c'ero. Ma oggi c'ero, non c'ero, ho già. È proprio a capo. Abbiamo dato qualche mese, dice un mese, 2 mesi, come può durare 6 mesi, non c'è nulla da fare, dalle ossa ai polmoni. Oh, il poverino, quanto mi dispiace. Vedi, per carità. La vita è così purtroppo. Cattivi la bambina e oggi sta male, cazzo. Purtroppo, ma chi ce l'ho conosciuto da quando ero ragazzino, addirittura lui c'aveva il negozio vicino a Signor Vasco, vicino al bar, lì c'aveva il negozio. Esatto, noi ci conosciamo, io ero anch'io, ero piccolino, ci conosciamo, abbiamo 60 anni, ci facciamo una vita, diciamo io ogni mattina lo chiamavo, c'era la campagna e ci prendevamo l'aperitivo. Sì, lui era fatto da anche dal compare, tu li conosci dal compare Spezzi che arriviamo in giro prima delle poste, con lui era il compare e vedeva tutti i cambi di cucine, tumore e via. Dopo il compare ha chiuso e si è preso le cose da una, a fianco a Tagliati, diciamo, a fianco al mare che sta vicino tu. E così via, dopo si è venduto e siamo in pensione, diciamo, là. Pensione, c'era la campagna, andava quattro volte al giorno in campagna. Ma per passare il tempo, e si piantava qualcosa, se la vendeva, diciamo, quasi regalata, con il suono della benzina si faceva, diciamo. E purtroppo siamo in passaggio. Ripeto, io l'ho visto a Madrid, ho portato anche un vecchio, vero, perché questo qua mi ha detto, non posso andare se chi prima chiedo, che sta a Modi, ho detto sì, vabbè, portalo. Quest'anno perché ero in aereo e via, io a San Giovanni, il 31-1, luce, avevo gente che appunto l'ho chiamato a Modi, sono sei giorni, che non riuscivo a mantenerlo. Figura, ogni tanto la giorno, ogni tanto va in tizi. Sono salito, ho sistemato, l'ho calmato là, e poi si è lamentato. Proprio ogni tanto è... va in tilti, c'è una persona a tenerlo. Ma quindi non ci ascolta lui? No. Guarda, non si capisce, l'ho portato io, un apparecchio, lui c'ha tutto, c'è anche uno grande che ho anch'io qua. L'avevo rifatto anche da poco da un amico, lo stesso. Che magari non si è accorto, ha fatto corto e ha bruciato qualcosa, però gli ha sistemato. Allora io ho preso, ci ho riportato un alimentatore, un apparecchio, l'antenna, ho utilizzato l'antenna che c'era lui per macchina in garage. Ma ti ricordi che mi hai sentito tu di sua stadiosio? E c'era anche nel casa del Marchisio. E io ho messo su un treppiedi che c'avevo, gli ho portato e lui ha detto, insomma non sta tocca, non va bene, capito, non va bene. È troppo momento, butta in terra e così via. Io non io se vado il sistema PMR, ma va in tilt, adesso l'ho tolto il PMR, l'ho tolto anche, l'ho tolto la manopola, l'ho messo un pezzo in alto, poi dobbiamo toccarlo. Oh, tu dove va? Io avevo parlato, siccome c'erano le momenti i canarini, lui ha detto che c'aveva la voliera, quello che c'erano tutti scappati. Quando ci sentiamo qualcuno te lo do, e invece qui è andata come è andata. E c'è una bella voliera giù in campagna, sì, in campagna c'è la voliera. E aveva parecchio, anche di... Vabbè io, non ho niente, comunque ma di uccellini aveva. Sì, è una bella grande, una voliera, enorme. E purtroppo io si mi messo domani, se no domani è scottabile, dopo non è da vicino, poi infatti quando una volta esco da lavoro, anziché scendere a casa, passo a casa sua, una mezz'oretta, a me non è bello, è contenta che la moglie, se no guai, la moglie è azzurra, la moglie non è, c'è la cognata. Il figlio è entrato avanti ieri, adesso deve nuovamente ripartire, c'è un figlio Andrea che fa il lavoro del registro e sta nel servizio in continente, questo figlio qua. Dunque adesso vediamo là. Luia, poco ore è andata a casa, ripeto, come abbiamo fatto un mese, può durare 6 mesi, può durare un anno anche. E da un momento all'altro, neanche te l'aspetti. Tutto qua. Ok, ti lascio e vedo subito già là. Eia, vai. Stai chiudendo? Ma non ascolto, vieni a accendere il fuoco, là, se no poi scattate, là. Prepara qualcosa, veloce. Io sono nei fornelli, sto preparando il pranzo. Ma c'è una cosa che sto facendo io, il capocollo. Ciao Marino, se mi senti. Sto facendo il capocollo, messo nell'olio, ok? Olio, sale, poi impanato, col pane grattugiato fatto dalle spianate, e poi messo in forno, nel forno combinato. Gratinato lo sto facendo più o meno, come si fanno le cose gratinate. No, io te l'ho detto, ho messo delle costine di maiale, un po' le ho fatte cucinare a metà, adesso fra un po' accendo il fornello, le faccio finire di cucinare, così almeno me le mangio calda e calda. Sì, aspetta un attimo. Un poco di salata e garofo cribbia. Avanti chi vuole entrare sui 10, cambio basso. Yeah. E cosa ti va di male? Pompuccio, tu sì. Cos'è, Vidu? un bel però, ma un bel mese. Giulio c'è un bebe. C'è un bebe Giulio. Acqua bevo io. Acqua e buio. Stamattina latte. A colazione, dunque. Acqua e basta. No, io anche il latte. Anche tu il latte? Sì, quel cappuccino mi faccio la mattina con la macchinetta, con la schiuma bella gonfia, come piace a me. Come lo fanno al bar? Anzi, meglio, più gonfio. Anch'io con la macchinetta espresso. E ti posso garantire che è veramente più buona, a parte gli scherzi, esce più buono di quello che fanno al bar. Sicuro. Con la schiuma, eccetera, eccetera. Ottimo. E soprattutto ve lo faccio caldo alla temperatura che piace a me. Anche io sono così. Ma lo faccio quello caldo. Cosa c'è, Thais? Ma adesso andiamo. L'ho portato 10 minuti fa. Mettalo sì. E come mai? Può darsi che abbia bisogno nuovo, perché no? E portalo, Gianni, portalo, se lo devi portare, portalo. Sì, la chiudo tanto. La gente sta entrando ogni due secondi, poi se ne stacca, poi fa, non si può fare un questione così, dai. Andava dai Giulio, buona domenica, mi ha fatto piacere sentirti, vado, vi faccio fare un giro e torno, c'erano, perché stava piovendo poco fa, capito, non ho tenuto molto giù. Ok, vai, gli portalo Gianni, sì che ha necessità, sicuramente se si lamenta vuol dire che ha necessità di uscire. Va bene, dai, già, ci sentiamo stasera eventualmente, dai, alle prossime, buon pranzo. Ciao, ci sentiamo, dai. Marino, ci sei? E ciao, giù, buongiorno, vai, va, questo sta passando il fuoco giù, e allora, tutto a posto? Sì, tutto a posto, Marino, certo. E oltre che a salutarti volevo notizie anche di Bacchis, come va? E mi va, lo stavo dicendo a Gianni, sto cazzo, sì, non stavo proprio bene, in questi momenti è... a momenti è luce, a momenti è a quel paese, poche parole, giù. Non stavo proprio bene, e così, oggi, no, ieri non sono andato, adesso vado, ce la faccio... domani chiamo a lui, dopo domani, perché vado un giorno sì, un giorno no, perché io un giorno faccio il servizio, esco la mattina a casa, vedo alle 4:30 e non mi va andare più tardi, capito? Poi magari vediamo anche da vado, quanto. Speriamo come viene, non lo sai, siamo di passaggio, purtroppo. Purtroppo sì, è così, è proprio così. Vabbè, speriamo bene, volevo che ti dica, ma che lì. Non so cosa dirti, purtroppo la vita è crudele, l'ho sempre detto e sono sempre della stessa idea. Per me la vita molto spesso è crudele, per cui non c'è che puoi cambiare niente, decidere da solo come deve andare. E vabbè dai, pazienza, la vita purtroppo è fatta in quel modo. Babbo, e anche oggi piove. È un casotto, e dopo ti mando una foto, dopo ti mando, va, la te la mando a nessuno. Ho fatto una foto e io guarda, non dico male, c'ho due pompe attaccate, una nel qua fuori dove c'è il barbecue e la veranda c'è un pozzetto, l'ho fatto l'anno scorso, quasi un metro per 50. E un altro nel bagno dentro, nel seminterrazzo. Sempre tirando l'acqua, tu lo dico male che sta entrando l'acqua, anche una polizia. L'ho scaricata stamattina che era quasi a bocca. Ieri ha preso il suo lavoro, ma ogni giorno. La sto scaricando, è acqua pulita, Sta entrando l'acqua dappertutto, non c'è nulla da fare. Un casotto, questa umidità, quest'acqua, poi se tu scendi a apri la polizia, il terreno non ne vede più, vedi solo risate e bu. Solo acqua vedi nei terreni giù. Sì, Maria, infatti, è troppo piove così, quando piove così tutti i giorni, no, non va bene, assolutamente. purtroppo anche a me mi sta dando fastidio, adesso sono stanco di vedere tutta questa pioggia, anche se io esco raramente, però mi dà fastidio, perché se non esco io magari escono i miei, e per la spesa eccetera è da fastidio. Tu pensa che non sono andato nemmeno alle poste centrali per prendere la pressione questo mese, soprattutto per il fatto della pioggia. E che cosa vado a fare? Che me lo fa fare? Non ci vado, andrò più in là, quando farà bella giornata, se non partenza, se non il mese entrante. Esatto, e c'è un casotto anche ieri mattina alle poste, Giulia. Ma ce l'hai dove la niente? La gente è fuori, ieri, avanti ieri. Oh Giulia, è così, è un casotto. E tu, meglio stare pure sempre lì. Tu mi sono confermato dietro, sentitelo, sono entrato in ascolto, guarda, sinceramente non ci voglio neanche entrare, sono tutto scombussolato, non oggi perché ho sentito a Gianni, sono entrato solo per salutarlo e ciccia, e poi sono entrato a fare poco, se no, neanche voi sono già, lo sai, sono giorni che ci piace entrare, i giorni ormai sono in ascolto, e già lo sai, non sono l'unico, avanti giù. Beh certo, un po' come fanno tutti, d'altronde è così. Non so, poi ieri era sabato, chiudeva a mezzogiorno le poste, non è possibile, no, già vado più là, no, non ho bisogno di andare così in fretta, no. Sarei dovuto andare il giorno 2, ma oggi quanto ne abbiamo? Mi sembra 10, 11, boh, vabbè, ma non mi interessa, posso andare anche a mezzo entrante, ma a mezzo entrante sono obbligato ad andarci, perché se no dopo 2 mesi, se non vado a ritirarla, me la mandano indietro all'Inps, per cui sono obbligato ad andare per forza. Anche perché io non ho avuto mai le cose, non me lo sono mai fatto accreditare sul banco posta, capito? Perché io vado lì, ritiro e poi vado al Banco Napoli, perché sono correntista da tantissimi anni, ma solo per il fatto di farmi 4 passi più che altro. Però adesso c'è questo problema dei contagi, eccetera, più la pioggia che si sta mettendo di mezzo anche, e dà un po' di fastidio. Vabbè, pazienza. Non fa niente, sopportiamo. Ascolta, ma come mai quest'anno ancora non hanno mandato il comune, non hanno mandato i calendari? Come mai? Capita, dimmi di casa, sono i tracchi, su. Oggi ho detto, guarda, sinceramente ci stavo pensando anche l'altro giorno. E adesso non so se sono in stanco oppure quest'anno per il momento, perché è tutto bloccato. Comunque se vuoi sapere le cose come l'anno scorso, guarda. Fino a maggio, perché poi ci sono le novità. Per esempio, ti dico una piccola novità. Il vetro, anziché ritirarlo 2 volte al mese, va ritirato 1 volta a settimana, dunque aumentato. Poi se non sbaglio, c'è la novità della plastica. Le lattine vanno separate, come fanno nei paesi, no? Le lattine vanno separate e così via, poi c'è qualche altra cosa in mezzo. Come scuole, nel sito, le cose, c'è tutto segnato, giusto, proprio, poi se sapere qualcosa. Calendari sono in stampa, però uno metto sono in stampa, l'altro metto per il momento sono bloccati, perché fino a maggio ci sono le novità e stanno di Cirene, ho capito, tutto qua. Il vetro adesso, se non sbaglio, è mercoledì, oggi ho controllato, si getta mercoledì, poi tutto l'altro, per il momento è normale, come il vecchio calendario giù. Ok, sì, quello sì, facendo così, no, ma abbiamo scaricato computer, il calendario, già c'era il computer anche, però no, quello che dico io, ma quando mai un comune, aspetta, non deve essere così pronto per dare le notizie, perché non tutti hanno il computer per scaricarselo, boh, è una vergogna, Vito Sassari è proprio una vergogna, aspetta, per non parlare poi di tutto il traffico, di tutta la mondezza che c'è in giro, grazie. Ma quando mai il comune non può intervenire e fare le cose come si deve, queste strade tutte piene di buche, tutte allagate, è una vergogna, beh. Che razza di comune che abbiamo, di amministratori, chi tu basi Aracamo e chi tu basi Chifu come amministrazione, pacare dai, no, non è possibile, loro pensano solamente a prendersi lo impegno, ma non ne la futti niente della città, purtroppo è così, Marì. Le tasse le paghiamo, giù, tanto le tasse le paghiamo, è un casotto. Se vedi l'appalto nuovo e ti metti mani a testa, hanno separato abbiamo tre aziende, c'è Forno Ambiente, l'Ambiente Italia, la solita quella del Cera, e la vecchia azienda del Cera. Per esempio, la Forno Ambiente si ha preso lo spazzamento meccanico, intendo, la spazzatrice insieme all'operatore a fianco, dunque l'operatore, come vedo, non deve essere seduto, deve essere fuori a buttare fuori dal marciapiede, fuori dalla strada. Invece c'è lo storico, è seduto, sembra un solattino, ma è un handicappato, un usato, un operatore, è un collega, ci hanno fatto nulla in esame, la vai per qua, neanche da quando l'hanno preso da questa azienda qua. E poi c'è l'ingombrante e qualche altra cosa. Invece a Venezia c'è la solita, il porta a porta e così via, adesso aumenterà tutto quanto, il porta a porta, i mesi sono stati già ordinati, fino a quando non arrivano i mesi ancora siamo in fase di casotto, è un casotto. E poi c'è anche una novità, fanno bene a prendere il cambio del bus e le cestine. A Venezia che cambiavamo noi operatori, ogni giorno si cambiava la busta. Chi la cambiava? Io che sono il fatto calcio storico, ogni mattina io me le cambiavo, ogni mattina. Queste qui invece cambiano una volta a settimana, voglio vedere la modesta del mare, il cestino, tutta la settimana che abbiamo gente, in civile ci butta, non modesta, le buste direttamente nel cestino, figurati. C'è la roba del cane che fa schifo, anche le buste. È un casino con l'appalto. Chi ha studiato l'appalto e adesso in un serpentone vuole prendere la caccia del Severesco da fare. E poi come noi operatori ci stiamo cambiando tutto. Io per esempio c'ho la zona di Cielo Storico, che c'avevo quasi mezza zona di Cielo Storico, siamo quattro, faccio io gli agi, la passo qua e devo scegliere, mi ci hanno messo le vie, giù a tutta la zona diversa, giù a Seminario Vecchio, Vicolo Macao, è tutta la zona diversa, a Via Usai, Piazza Castello, insomma, e stanno facendo un casotto. Sempre le solite persone intelligenti che vanno al comune questo, le persone sanno tutto e voi non sanno nulla. Ok, io ti devo lasciare, ti chiedo scusa, ma sto, c'ho il fuoco acceso e devo girare qualcosa. Ok, ciao, buon pranzo, saluto tutti gli ascoltatori, per me, per il momento QRT, poi se ci sentiamo, c'è il taggiano tutto giù. Poi ti ho mandato la foto. Ok, ciao ciao. Un attimino, Marino, scusa Giulio, Marino. Dimmi Luca, ti ascolto, dimmi. Ah, mi ascolti, ma è me, Bacchisio, come sta? Bacchisio, io Luca, è così così. Oggi c'è, domani non c'è. Cosa vuoi dire? È il passaggio, l'hai capito? È il passaggio. Purtroppo è così, non vedo dove va. Ok, Luca, ti chiedo scusa, ma te sto chiudendo, allora. Ciao, riprendi Luca. Sì, allora, grazie comunque, là, mi dispiace tanto. Là. Riprendi Giulio, là, saluto anche a te, che va a girare le bistecche, un attimo. Buongiorno a tutti e buona domenica. Tutto è cambiato, ciao Claudio, ciao. Ok, ciao Mari, ci sentiamo, dai. Alle prossime. Ciao Luca, ciao Claudio. Va bene. Uia, va bene, dai. Avanti qua, e beh, oggi il rumore com'è? Così, mi interesso, infatti anche Luca mi ha invitato per un aperitivo, ma non so perché parlare, sono qua. Perché volevo pulire, c'è anche mia figlia a casa a pranzo, oggi ha ancora una mano a pulire, io mi sono messo a cucinare. Adesso ho spento la carne al forno, mi sono seduto un attimino qua a rilassarmi, e boh, sempre lì c'è il rumore, Giulio, c'è da fare tanto, e niente, è il discorso sempre quello. Comunque, buongiorno a tutti e buona domenica. Ma lì, se sei in ascolto, un abbraccio grande da allora a Bacchisio, da parte mia. Avanti, Giulio. Ok. Purtroppo è così. Purtroppo è così, la vita è così. E cosa vuoi fare? Non si può, non si sa più cosa fare, cosa scegliere, perché purtroppo siamo obbligati a certe situazioni per cui non possiamo decidere, non possiamo fare niente. Pazienza, adesso aspettiamo l'ora del pranzo, è l'ora meno quarto quasi, per cui siamo vicini e poi vedremo un po' stasera cosa fare. E vada poi va, dalla poltrona allo divano, dalla poltrona, dalla televisione al baracchino a chissà che cosa, boh, cosa così facciamo e tiriamo avanti lo stesso, va. Oh, boh. Così è qua. Così è Giulio, così è. Comunque buongiorno a tutti, buona domenica, sito Giovanni poco fa è sfuggito, Mario l'ho salutato, a Luca, insomma tutti quelli che sono ascolto su 10, buongiorno a tutti, buona domenica. Passatela come voi desiderate, non sono un bolscevico. Vabbè, niente. Come dicevo, ma stasera c'è calcio, c'è qualcosa, visto ieri ha giocato il Milan, il Bologna, non so cosa abbia fatto il Milan, ha vinto, non so se è 2-0, 3-0 contro il Torino. Oggi cosa sono partite alle 3, alle 8, alle 6? Sì, beh, come sempre, come tutte le domeniche. Sì, sì, la Juve gioca stanotte alle 9:15. Sì, lo so. Bologna ha perso 2-0 con Genoa ieri. Ma comunque, anzi a quest'ora ci dovrebbe essere anche una partita, suppongo di sì, perché a mezzogiorno e mezza ce ne doveva essere un'altra. Non mi ricordo quale, però ci doveva essere. E vabbè, cosa vuoi fare? Vuol dire ci guarderemo qualche partita anche. E così passiamo un'ora e mezzo guardando la partita. Presenza, intanto nel frattempo dedica anche lui il coronavirus, sì che sono già in tre alla Juve, Alessandro, Quadrado e Delitti. Bobo, caspita, è un problema veramente questo fatto del contagio, ha falsato tutto il sistema di vita, l'ha falsato. Sia nello sport, sia nell'economia, sia nelle abitudini giornaliere della gente. Cos'è che non ha fatto? Ha fatto un danno madornale questo accidente del virus. Speriamo che finisca presto. Ma cosa finisce? Io stamattina sono andato a fare un po' di spesa, robetta che mancava, capito? Ho visto che la Cobbe e la Comode stanno già facendo entrare. Normalmente con le restrizioni, capito? Quindi c'è nell'aria e non c'è da fare, gente ormai ha paura e non. Qua stamattina c'era un funerale, poi sono sceso per la fotografia, ho visto il carro funebre qua nel mio complesso qua. Non so ma chi sia, forse qualche anziano giù delle palazzine di giù. Speriamo che non sia morto di coronavirus, se no. Vabbè, non buco il problema, andiamo via là. Non lo so, non lo chiedo perché sinceramente non sono manco chi sia. Giù da me in fondo ci sono molte persone anziane che abitano, insomma, da quando siamo venuti a abitare qua, quindi sicuramente la conosco, non lo so, vabbè. Chiedo comunque. È così Giulio, non te lo stiamo sempre a parlare, intanto è così e boh, no, secondo me non cambierà. C'è un articolo anche del centro commerciale Ex-Auchan, Conrad, c'è una polemica enorme, non so se l'hai letta su internet, centro commerciale pieno, polemica del sindaco di Sassari, ma sta chiuso il centro commerciale, come chiude le altre attività, chiude anche quella, non so ti dico. Ma certo, infatti è così, e poi ormai questo fatto della prepotenza da parte di quella certa gente non è che mi piace molto, dice. Preferiscono pagarsi la multa loro, capito? Dice così, intanto mi pago la multa, però incasso un sacco di soldi e mi conviene. Io a quel punto avrei detto, beh adesso ti chiudo l'attività, voglio vedere se incassi così, o se lo vai a putta. E se riapri ti prendo la licenza anche. Così che deve agire il comune, così dovrebbe agire il comune, non è possibile. Mica un gol stanno hanno fatto, adesso guardo chi è che sta giocando. Va bene, dai, d'altronde è così, no, non è possibile, anche ieri sta guardando in televisione, un assembramento, una cosa impressionante, tutta la gente, tanta gente anche senza la mascherina, no, non c'è rimedio, non c'è polso da parte delle istituzioni, non venuto da va. Se le istituzioni sono ballerine, perché sono tutte ballerine, e anche la gente ne abusa, ne approfitta, perché la gente è anche incosciente, sarà anche stanca, questo lo capisco, però è soprattutto incosciente. Oh, vabbè, comunque, ripeti. follia, non rientrano a tutti nulla, entrano, si tolgono la mascherina, se la abbassano, girano, fanno un casino di Gesù Cristo, cioè che c'era ieri. Vabbè, cosa vuoi dica? Io guarda, sono abbastanza sereno perché non sto uscendo, sono a casa, non voglio nel modo più assoluto che venga nessuno a casa, assolutamente. E quindi tranne mia figlia e mio genero che sono praticamente di casa perché convivono con noi e noi conviviamo con loro. Mia figlia è stata da ieri, era a casa sua, oggi sono stato qui e poi se ne vanno, le 5, le 6 se ne andranno. Non me ne fotti nulla, io sono qua, e fortunatamente sono a casa, perché tu immaginati, proprio ieri parlavo con un mio ex collega e mi ha detto Claudio, sei fortunato che ti riesci a dare, perché noi stiamo lavorando male, ma male, abbiamo 16 squadre tutte positive, 16 squadre, sono tanti, 16 squadre sono tanti, c'è metà del personale della zona dove ero io a casa. E stanno facendo dei turni massacranti, quelli che hanno già fatto il tampone e sono negativi. Gli altri sono ancora in attesa di esito, eccetera, però tutti in quarantena, a casa, un casino. Un casino nero c'è nell'azienda dove lavoro io, un casino nero. E questo io lo immaginavo perché lavorando in quel settore non è possibile non prendere il virus, anche perché lavori nello sporco e quindi è così. La mia fortuna, sono a casa, tranquillo, sereno, non me ne fotti più nulla. Avevo, te l'ho già detto l'altro giorno, avevo messo l'intenzione di rientrare per darle una mano, perché me l'hanno proposto con un contratto a chiamata che possono farlo senza toccare la pressione, eccetera. Ma ho detto no, nel modo più assoluto, perché io voglio vivere sereno e tranquillo. Se non ci fosse stata questa pandemia, per carità, ho un rapporto bellissimo con la mia azienda, l'avevo lavorato per 30 anni, e quindi potevo benissimo accettare, ma non ho accettato proprio a proposito perché è molto ma molto pericoloso, non si può fare. Hai fatto bene qua, hai fatto bene, che te lo fa fare, ormai sei fuori, ti metti di nuovo in un problema, i soldi mai si vedano, non si ha a quel bisogno, cosa te ne frega, lascia andare così, oggi non è possibile, guarda. Non è possibile nella maniera più assoluta. Purtroppo così, adesso mi proprio quando ieri lo stavo leggendo, sì, sul tablet mi era arrivato la cosa, il comunicato della giornata Nuova Sardegna, che in tutta la borgata di Le Punti domani non ci sarà acqua, dalle 8:30 fino alle 7:30 di sera, alle 5:30 di sera, per lavori eccetera eccetera. Sì che già da stasera dovremo farci un rifornimento, perché se hai necessità dell'acqua per il bagno eccetera, soprattutto è chiaro che ci riempiremo, vuol dire un po' di recipienti, anche la vasca da bagno, almeno con un bidone, con un secchio la prendi l'acqua se ti occorre per il bagno, almeno quello, vuol dire supporteremo anche quello, lavori lì della rete, non so, qui alle punti tutta la borgata, c'è un sito in tutta la borgata. Non è possibile, ogni armamento ve ne è una, non ogni giorno, ogni momento ce n'è una. Vergognoso, vergognoso veramente. Vabbè, comunque, andiamo a campare, rimaniamo calmi, se no è peggio, se no ci deprimiamo anche. Ui, vabbè dai. Comunque quel fischio boccaccio, quel go go eccetera che dice il telefonino era il gol della Roma contro l'Inter, sta vincendo la Roma 1-0, al 17° ha segnato. Te l'ho detto che c'era la partita questa, però non mi ricordavo qual era la squadra che giocava. Veramente una bella cosa. Sì, lo so, ma mi tengo informati i miei colleghi. Non c'è problema, te ripeto, io sono andato via, ma ho un rapporto, come che stia lavorando. Mi informo di tutto, ci sentiamo spesso. Sì, c'è un lavoro a Trucoreale, hanno già iniziato, quindi probabilmente la restrizione sarà molto, molto veloce, capite? Loro danno un tempo perché chiaramente non sanno mai per imprevisti e due o tre ore loro danno, per dire, tutta la mattinata lavorativa, poi tra riaprire, rimettere in portata tutte le pressioni eccetera, ci vuole tempo, quindi è chiaro loro si prendono sicuro, però sì, stanno pulendo i chiarificatori a Turco Reale, quindi hanno chiuso Monteoro, perciò alle punti non c'è acqua, perché voi ci siete serviti da Monteoro. Mentre noi invece siamo serviti da via Milano, quindi non abbiamo problemi di questi lavori, capite? Va bene. Io ti saluto perché mi hanno chiamato, devo dare una mano in cucina, dai, che c'è mia figlia a pranzo con la ragazza, quindi devo dare una mano. Se coincide ci sentiamo stasera, come al solito, altrimenti alle prossime, ok? Grazie delle due chiacchiere, saluto tutti quelli che sono in ascolto e buon pranzo e buona domenica nuovamente a tutti. A te, ascolto il finale e poi chiudo. Ok, grazie a te qua. Buon pranzo e grazie a te per le chiacchiere che abbiamo fatto in questi 10-15 minuti. Ci sentiamo stasera eventualmente. Vai. Ciao ciao. Saluti in casa, ciao. Ciao Giulio, grazie per tanto a te. Ora, attenzione, binario 10, copiate Antonio Bombolo che fa chiamata a Capra. Qua binario 11, avanti Bombolo. Capra, come mi senti con la MB più 4? Benissimo, a tu, benissimo. Ehi, Amarie, ma come hai visto Giananda, dai? Allora sei a casa o sei tornato, o sei ancora da Toledo? A casa sono. Ora, compendie. Già compendie, sì. Una bella lavorazione, ottima. Kappa, kappa. Ora. Hai detto che pone ma zero in occhi? Facciamo un'altra cosa, esito? Un attimino. Guarda Maria a vedere com'è. Ora! Andare, aumentare il segnale, aumentato anche. Kappa, come si sente con l'MB più 5, più 4? Bene, ottimo. E io ne ho due quelli, no. Uno ha attaccato sul cielo qua, l'altro dato sull'altro parecchio. Va benissimo. Ancora bacia la pena. Guarda se va bene così. Non sento bene i rumori. Perché sto questo cazzo di apparecchio acceso. Guarda, adesso l'ho spento. Beh, cazzo vuoi fare buio con tutti i rumori. A quanto ce l'hai il microfono? Ah va, ma io, cazzo, ma non c'è cosa così mi intende. Aspetta. Ah, sì, ce l'ho. Ma mettiamo a 4. Prova a vedere a 4 com'è. Ecco qua. A 4 va bene? Ma sento un po' questo come? Forse perché c'è la ventola accesa. Aspetta un attimo e prova a spegnere la ventola. No, non è la ventola, devi schiacciare bene il microfono. Vai, già va bene, lascialo a 4, se no è troppo così non si sente. Kappa, guarda a vedere. Come lo tocco, ecco. Come tocco il sugavo di dato, forse vorrebbe spruzzato un po'. Così, tutto sta tanto, non devi gridare, cazzo, sì, vai sempre al mercato, era normale, ma perché gridi? E stai lontano dal microfono. Kappa, sono lontano, guarda a vedere, adesso sono normale. No, non gridare, cazzo, per esempio non accade, se ne viene del becco, vai, non gridare, normale, parla normale, ok, così va bene. Ciao Marie, di nuovo, vai, ci sentiamo dopo, lascialo così a 4, tu, che devo andare in cucina. Kappa, no, mi devo abituare a parlare piano, ma cosa io sono abituato, sono un mozziaccio, e se ne è un casino. Non devi trovare un comico, facciamo una trappa, ok, lascialo così, ci sentiamo dopo. Ma soprattutto non è che devi gridare, soprattutto, ciao Frasi, devi cercare di non dire parolacce, perché la gente che ascolta ha anche dei bambini piccoli qua, capito Antonio? Che ha detto barolacci? Ma guarda, ieri notte ho fatto di tutto per sentire, ma alla fine poi ho anche spento perché talmente sboccato che alla fine non mi dà neanche il cuore di accendere la radio. È un consiglio in generale. Scusa, ma ero incazzato niente a rimanere a notte. Se ne trovavo uno vicino lo tirava al muro ieri, ero incazzato niente. Lo so, però la radio non è che fa solo per dire parolacce. Vabbè, corri, ciao. Scusami da parte mia, è colpa mia, scusa. che chiudo anch'io, là. Ciao, ciao Claudio, ciao Tino, ciao a tutti, sentiamo, là. Ciao, ciao. Ciao Maria, ciao. Ciao Maria, ciao. Scusami da parte mia. Scusami tanto. No, voglio dire, a volte come anche scappare, però meglio evitare, dai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, finalmente c'è una trazione come si deve. Andare a raggiungere per un video di Sarabozzi, ma...